per la prima volta in Italia. Colui che non passa la selezione all'ingresso, poi entrerò nel remix trap per Raver Damarro, direttamente sulle strade di Piacenza, allattato a colpi di Mario Trevi e Gianni Celeste, educato dagli articoli e colle del fumetto, indirizzato dalle notate consigli Ustata anche Sandro Leblay, fino alle fabbriche abbandonate con Arcusec. E tutto questo crea un mostro, questo è il Tristline. Piace questa musica, sei troppo uno sfigato, un drogato stralunato, schiavo del suo stesso stato, un operaio del cazzo che si alza presto la mattina, è uno stipendio che un impiegato prende da disoccupato. Sicuro sei stato sfruttato sul lavoro col precariato, altri decreti segreti da sindacato, sei stato deluso, pugnalato, sangue nel cuore, e ora chiami troia la tipa che chiamavi amore. Sicuro ti fumi la rabbia e torni tranquillo sul muro, hai scritto il suo nome ragazza squillo maturo, ma nego ogni sballo che mai sgamato e lo giuro, non sono ubriaco soltanto brillo. Ho cancellato il passato e l'hai lasciato alle spalle, ma questo torna imperterrito, perdito dito e palle, dalle popolari abusivo alla casa in affitto, mi son creato da solo eppure mi sento sconfitto. Dateci una chance, un'opportunità, dateci la forza di affrontare la realtà, dateci la scelta di cambiare col lavoro, dammi l'uovo oggi che domani non ci sono. Dateci una chance, un'opportunità, dateci la forza di affrontare la realtà, dateci la scelta di cambiare col lavoro, dammi l'uovo oggi che domani non ci sono. Ascolti questa musica, sei uno che protesta, non ti va bene un cazzo, mezzo fuori di testa, per la famiglia l'unica causa persa, per te drogarti vuol dire far festa e viceversa. Hai mille progetti e zero conclusioni, mille ambizioni, ma ne ti ha aumentato l'umiltà nei cromosomi, sei cresciuto assieme alle tue multe da pagare, pappa e ciccio ormai col tipo che ti viene a pignorare beni materiali, se così li vuoi chiamare, quei quattro rottami che non vedevi l'ora di eliminare. No, io non ti do soddisfazione, no, nonostante sia sotto di un botto non mi impressiona, no, non segui la moda, non la pensi come il gregge, quando il gregge è d'accordo c'è qualcosa che non regge la legge, se sbagliata la ignori, vivi per i tuoi ideali, ogni giorno a lottare là fuori. Dateci una chance, un'opportunità, dateci la forza di affrontare la realtà, dateci la scelta di cambiare col lavoro, dammi l'uovo oggi che domani non ci sono. Dateci una chance, un'opportunità, dateci la forza di affrontare la realtà, dateci la scelta di cambiare col lavoro, dammi l'uovo oggi che domani non ci sono. Dateci una chance, un'opportunità, dateci la forza di affrontare la realtà, dateci la scelta di cambiare col lavoro, dammi l'uovo oggi che domani non ci sono. Dateci una chance, un'opportunità, dateci la forza di affrontare la realtà, dateci la scelta di cambiare col lavoro, dammi l'uovo oggi che domani non ci sono. Dateci una chance, sono una cazzo di chance, un'opportunità, sì, per poter cambiare almeno la nostra realtà, e dacci un nuovo oggi, perché domani quella gallina di merda potrebbe prendere la viaria. E poi, ma poi noi che cazzo facciamo, eh? Io, che cazzo mangiamo?